Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci, benvenuti ad Europa 24. Dedico questo premio alle Aung San Suu Kyi del Pakistan e del mondo che combattono per i diritti umani. Ha parlato così questa mattina Malala Yousafzai, la ragazzina pakistana ferita gravemente dagli estremisti nel suo paese ed ora paladina dei diritti delle bambine in Pakistan. Davanti alla plenaria di Strasburgo, dopo la consegna del premio Sakharov, Malala ha lanciato l'appello a cambiare l'ideologia del potere. La potenza dei paesi non deve essere giudicata sulla base della potenza dei loro eserciti e marine, ha detto. Vera superpotenza è un paese pieno di talenti, non quello che ha migliaia di soldati. Stop all'aumento automatico dei salari dei funzionari comunitari, lo dice la Corte di Giustizia del Lussemburgo in una sentenza storica. Una sforbiciata che riguarda l'1,7% del salario degli ultimi 3 anni più gli interessi. Si va da un mancato ingresso di 12.000 euro per un vicepresidente della Commissione ad un meno 4.000 per un eurodeputato. L'Assemblea di Strasburgo ha approvato ieri il budget comunitario. Per la prima volta è in calo rispetto al periodo precedente. Un voto importante, ma le cifre stanziate sono molto lontane dalla perfezione. Con queste parole il presidente Martin Schulz ha salutato il voto della plenaria sul bilancio 2014-2020. Un voto che ha messo definitivamente la parola fine su una lunga battaglia iniziata nel giugno 2011. Il sì definitivo dell'Aula sancisce che il quadro finanziario pluriennale dell'Unione per il periodo sarà di 960 miliardi di euro in impegni finanziari e 908 in pagamenti. L'Aula, che avrebbe voluto più soldi e non certo contenta del fatto che questo settennio avrà meno risorse in termini assoluti rispetto a quello che sta terminando, cosa mai accaduta in passato, ha ottenuto però una maggiore flessibilità nello spostamento dei fondi non corrisposti e degli impegni di spesa. Perché c'était le seul accord possible, ça n'était pas le meilleur, ça n'était pas le moins mauvais, c'était le seul possible. Et donc, è l'unico accordo possibile, non il migliore, non il peggiore, l'unico possibile, ha commentato Alain Lamassoure, presidente della Commissione Bilancio dell'Aula. Questo accordo è riuscito a mantenere la flessibilità per il quadro finanziario pluriennale, ha aggiunto, resistendo alle proposte di tagliare gli investimenti in lavoro, ricerca e innovazione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lo sentivamo dunque dell'approvazione del budget settennale comunitario, che contiene novità importanti anche sul fronte del piano Erasmus. Via libera finale dell'Europarlamento al bilancio settennale dell'Unione Europea 2014-2020. Mesi di negoziati durissimi con i governi dei Paesi membri hanno prodotto l'ok al primo bilancio ridotto nella storia comunitaria, 908 miliardi di euro in tutto in pagamenti. Gli europarlamentari hanno ottenuto la possibilità di rivedere il bilancio entro il 2016 per correggerlo eventualmente in corsa. Le prime modifiche sono già avvenute però negli ultimi mesi grazie all'ok a fondi addizionali e anticipati contro la disoccupazione giovanile a favore delle PMI e soprattutto per l'Erasmus. Proprio ieri ha visto infatti la luce Erasmus Plus, versione rivista e aggiornata di uno dei programmi comunitari di maggiore successo. Il nuovo pacchetto disporrà di risorse aggiuntive pari al 40% nei prossimi 7 anni, per un totale di quasi 15 miliardi. Erasmus Plus riunirà i principali programmi per l'istruzione, la formazione e la gioventù, quali Erasmus, Comenius e Leonardo. L'intero programma garantirà fondi destinati agli under 30 per studiare all'estero, mettendo a disposizione pure agli studenti dei master in Europa un meccanismo di garanzia per ottenere prestiti agevolati. A beneficiare complessivamente di Erasmus Plus, si stima, saranno 4 milioni di giovani europei. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di scuola e di istruzione, bacchettata della Commissione Europea all'Italia. Basta con la discriminazione degli insegnanti precari della scuola pubblica. Lo Stato deve assicurare stipendi uguali a quelli di ruolo e dare più certezze, visto che svolgono lo stesso lavoro ma hanno un contratto diverso che li lascia precari anche dopo tanti anni di lavoro continuativo. Lo chiede Bruxelles all'Italia mandando avanti la procedura di infrazione già aperta. L'Italia ha 2 mesi di tempo per rispondere, altrimenti la Commissione la porterà dinanzi alla Corte europea. Nasce il drone europeo. A partire dal 2020, piccoli aerei senza pilota prodotti da EZ, Dassault e Finmeccanica solcheranno i cieli per missioni militari e civili, come la sorveglianza delle frontiere esterne o la lotta contro l'immigrazione clandestina nel Mediterraneo. 7 paesi europei, Italia, Germania, Francia, Spagna, Grecia, Polonia e Olanda, si sono impegnati a lanciare programmi comuni di droni. I ministri della difesa riuniti a Bruxelles hanno approvato i progetti di sviluppo nel settore che devono ora passare al vaglio, ma l'esito appare scontato, dei capi di Stato e di Governo durante il loro vertice di dicembre, dedicato in parte anche all'argomento difesa. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.